Egregio signor Rossi, sono il suo vicino di casa, Gianmarco, e vorrei farle notare due aspetti poco piacevoli legati alla nostra convivenza, poiché mi premono dentro da qualche tempo. Quando i suoi figli tornano alle 4 del mattino dalla discoteca, cominciano a produrre un fracasso terribile. Inoltre canticchiano le canzoni ascoltate e riascoltate anche da me durante il giorno, in quella stanza che in pratica è stata trasformata in un locale pubblico. Già da numerose notti, anzi mattine, provo a far smettere quella straziante melodia bussando timidamente alla parete. Ma invano. Forse i suoi amati figli pensano che quel tump tump sia una batteria. Credo sia arrivato il momento di dare un taglio a questa storia. Aggiungo un altro particolare. La sua domestica, che ogni giorno alle 7 comincia a cantare ad alta voce, come una pazza, le stupidissime canzoni degli anni 80. Per fortuna non è ostinata come i di lei figli, che hanno scambiato la vita per una discoteca forever e invece si trovano al di là della mia parete. Insomma, io sono un essere umano e di notte vorrei dormire e il giorno studiare. Sa com'è, signor Rossi, anch'io ho dei momenti di debolezza. Quando mi trovo un libro davanti, non sempre trovo la voglia di applicarmi e se ci si mettono anche le distrazioni, leggi musica al di là del muro, allora è finita. Spero che questa lettera la faccia riflettere. La invito anche a riflettere sulla data, 25 aprile, ovvero la festa della liberazione. Ebbene, io vorrei liberarmi dal fracasso dei suoi figli e della sua domestica. Cordiali saluti, Gianmarco.